Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Ovunque nel mondo si studiano soluzioni per produrre in modo decisamente alternativo energia. Così alternativo che verrebbe quasi da dire bizzarro. Invece guardare con occhi nuovi alle opportunità di raccogliere energia là dove si trova e nella forma in cui è più facilmente disponibile è un'attitudine che dobbiamo sviluppare sempre di più. Allora, abbiamo raccolto un po' di notizie che arrivano dal mondo, proposte e innovazioni per raccogliere energia dove non te lo aspetti. Intanto sarà capitato a molti di avere il desiderio di contribuire con una piccola quota di rinnovabili ma senza avere l'opportunità di farlo. Per esempio perché non si ha a disposizione uno spazio adeguato o magari perché lo spazio c'è ma il resto del condominio non è d'accordo a utilizzarlo in quel modo. Se avete un balcone però non tutto è perduto perché tra pochi mesi entrerà in commercio un oggetto non troppo diverso da una fioriera che si monta, pensate un po', sul corrimano della ringhiera allo stesso modo e che ingloba un piccolo pannello solare e una piccola turbina eolica che pende al di sotto. Si collega direttamente alla rete elettrica e il gioco è fatto perché questo oggetto, si chiama Greenerator, ingloba già al suo interno tutta la circuiteria necessaria. Non aspettatevi chissà cosa, ovviamente uno di questi oggetti farà risparmiare più o meno un 6% dei consumi domestici e d'altronde nulla vieta di installarne più di uno. L'aspetto è decisamente accattivante di design, con un po' di fantasia potete immaginarlo come uno di quei vasi da cui i fiori ricadono verso il basso, certo un tantino postmoderno come vaso di fiori. E beh, a proposito di postmodernità, sentite che cosa stanno combinando in Cina. In pieno deserto del Gobi, vicino a Wai City, nella Mongolia interna, è entrato in funzione il primo impianto a camino solare cinese. Va pensato come una grande cupola di vetro di forma circolare, molto appiattita, dal cui centro emerge un lungo camino. In pratica si tratta di una grande serra disposta su un terreno sabbioso. La copertura di vetro intrappola il calore del sole mettendo in atto il ben noto effetto serra, mentre la sabbia che ricopre il terreno lo accumula. L'aria calda si incanala lungo il camino centrale, al cui interno si trovano delle turbine che generano elettricità. L'impianto, primo nel suo genere per la Repubblica Popolare Cinese, ha una potenza limitata, 200 kW, ma è in grado di produrre 400 MWh all'anno e permetterà un risparmio di 100 tonnellate di carbone e 900 tonnellate di acqua rispetto a una centrale termica tradizionale. Infatti, il flusso d'aria che è incanalato per il camino permette alla turbina interna di ruotare non si interrompe neanche di notte, grazie alla sabbia del deserto che rilascia calore anche durante le ore notturne. Bisogna ricordare che la capacità di produrre energia con continuità è una delle caratteristiche più apprezzabili per una fonte energetica. Proprio per garantire tale continuità anche durante l'inverno, quando le ore di sole sono inferiori, è stata aggiunta un'apertura nel camino per ottenere energia eolica. Il costo dei lavori si aggira sui 200 milioni di dollari, ma il progetto non è ancora terminato. La Repubblica Popolare intende ottenere 27,5 MW di potenza entro il 2013 da questo impianto. È quanto prevede il programma quinquennale cinese volto a ridurre l'intensità energetica nazionale e le emissioni di CO2 dal 2011 al 2015. C'è da scommettere che i cinesi rispetteranno i piani. E dai deserti della Cina ci spostiamo nelle fogne di New York. Certo, mi rendo conto che c'è quel problemino della puzza, ma proprio per questo siamo qui, per la puzza. Infatti questa puzza segnala inequivocabilmente che ci sono batteri all'opera. Questi esserini unicellulari, così sgradevoli all'olfatto, sono infatti l'ultimo anello della catena trofica, quindi della catena alimentare, e si nutrono delle sostanze disciolte nei reflui urbani, trasformandole in composti semplici, materia inorganica, CO2, ma anche metano e altri idrocarburi. A New York allora si sono domandati se non fosse possibile sfruttare questo immenso potenziale fognario, chiamiamolo così. Ricordate che New York, insomma, ha qualcosa come 20 milioni di abitanti e credo che non serva aggiungere altro. Allora cosa è successo? Il Department for Environment Protection, quindi il Dipartimento per la Protezione dell'Ambiente della città, si è messo all'opera, ha fatto tutta una serie di valutazioni e ne è venuto fuori uno studio secondo cui quel fiume maleodorante deodorante che scorre sotto la città vale 400 milioni di dollari l'anno. Infatti basta scaldare questo liquame di scarico, praticamente insomma rendere un po' più allegra la vita a quei poveri batteri, e loro si mettono a produrre butanolo, che può essere utilizzato come alternativa alla benzina, ma anche metano, che come sapete insomma ha tutta una serie di applicazioni. C'è da chiedersi solo come mai abbiano impiegato tanto a focalizzarsi sugli scarichi fognari, visto che New York con 14 impianti di depurazione soddisfa attualmente già il 20% del fabbisogno di metano della città. Ma torniamo in Europa, che come si sa di questi tempi più che altro galleggia. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, recita il detto. E allora, quale luogo migliore del mare per tenere lontano dalla vista pale eoliche e impianti fotovoltaici? Una ragione in più per puntare a impianti offshore, i quali però diventano estremamente costosi su fondali profondi. Ecco allora che una buona idea può essere galleggiare. Ad Avetrane, in provincia di Taranto, sono stati avviati i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante. In Francia, invece, si ragiona sull'eolico galleggiante con due progetti, Vertwind e Windflow. Quando il fondale supera i 50 metri di profondità, i costi dell'eolico offshore schizzano verso l'alto. I due progetti puntano quindi a mettere a punto un sistema di ancoraggio innovativo. Il principio non è molto diverso da quello sfruttato dal galleggiante di una canna da pesca. Un lungo galleggiante si estende in profondità sotto la pala ed è ancorato al fondo con dei tiranti. L'azione delle due forze contrapposte, la spinta di galleggiamento verso l'alto e l'attrazione dei cavi verso il basso, stabilizza la struttura. E anche per stasera è tutto. Domani vi parliamo di un progetto di Adiconsum, una notizia freschissima che consentirà a molti italiani di vedere valutata energeticamente la propria abitazione. Buona serata a tutti.